in primo piano. Buongiorno, buon mercoledì da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa quotidiana. Ieri non ho citato la prima pagina di Financial Times perché, per qualche ragione, a volte succede, non era arrivato in tempo per citarlo. Oggi invece l'abbiamo ed è molto interessante. La prima pagina c'è la foto consueta utilizzata in prima pagina, una sorta di foto notizia da Financial Times, in questo caso poi è anche collegata a un approfondimento a pagina 4, ed è la sentenza che arriva dalla Malaysia. È stato condannato a Kuala Lumpur l'ex primo ministro Najib Razak a 12 anni per uno scandalo che è uno scandalo finanziario che coinvolge il colosso IMDB. È uno schema multimiliardario, così lo definisce, uno schema finanziario fraudolento multimiliardario, così lo definisce Financial Times, in cui fu coinvolto appunto l'ex premier. Il titolo principale però è dedicato all'Europa e a quei focolai, in inglese spike, coronavirus spike, in alcuni paesi, in particolare non in Italia ma in Germania, Francia e Spagna. Tutto questo mentre, naturalmente sappiamo, i lockdown sono stati praticamente finiti in questi tre paesi ed è aumentato il turismo, e questi due fattori insieme, secondo Financial Times, almeno dal titolo, hanno contribuito a questi nuovi focolai. L'altra notizia invece riguarda gli Stati Uniti, la Federal Reserve, la banca centrale americana, che ha deciso di prorogare gli emergency lending, cioè i prestiti di emergenza, per cercare di aiutare le imprese a fronteggiare e il più presto possibile uscire da questa crisi. Richiamato in prima pagina un tema che troviamo anche su alcuni giornali italiani. Ieri abbiamo visto il record della capitalizzazione di 5 grandi aziende della tecnologia: Alphabet, che è la holding che controlla Google, Amazon, Facebook, Apple, alle quali si aggiunge, anche grazie al successo incredibile avuto durante i mesi del lockdown, da Netflix. E c'era questa capitalizzazione, tra l'altro gli ascoltatori mi avevano segnalato che avevo detto 5 miliardi, naturalmente erano 5 mila miliardi, una capitalizzazione totale. E però oggi 4 di questi big, cioè Google, Amazon, Facebook e Apple, quindi esclusa Netflix, si devono presentare a Washington per una serie di audizioni, ed è un tema che, come vi dicevo, troviamo anche su altri giornali e anche italiani, e anche su Financial Times viene messo in prima pagina, e il titolo è Big Tech, cioè queste quattro aziende set for a rough ride, cioè si apprestano ad avere un rough ride, cioè che letteralmente è un passaggio difficile a Washington. E l'approfondimento con i visi dei quattro amministratori delegati delle quattro aziende, cioè Sundar Pichai di Alphabet, Google, Jeff Bezos di Amazon, Tim Cook di Apple e Mark Zuckerberg di Facebook, devono testimoniare appunto oggi. Da Financial Times vi segnalo anche la Big Read, cioè la pagina di approfondimento, che è tutta dedicata alla Polonia, ma non per le questioni strettamente politiche, ma per il fatto che la Polonia è in Europa il paese che ancora fa più ricorso al carbone come fonte di energia, e naturalmente sappiamo è una delle fonti più inquinanti. Un interessante approfondimento, ve lo segnalo per due motivi che adesso vi spiego, sempre da Financial Times, richiamato in prima pagina, sull'andamento della campagna elettorale e dei sondaggi da qui a novembre per le elezioni americane. Il titolo è troppo presto per dare per spacciato Donald Trump. L'ha scritto Dan Senior, che fu consulente di Mitt Romney nel 2012. Sapete che Mitt Romney era uno dei rivali di Trump per la nomination del Partito Repubblicano, è stato l'unico repubblicano a testimoniare nel processo per impeachment di Donald Trump che si è svolto all'inizio dell'anno, e quindi E tra l'altro sempre Dan Senor era anche stato nello staff di George Bush, George Bush Jr., quindi insomma conosce bene il partito repubblicano, e dice è talmente bravo Donald Trump e i suoi strateghi a organizzare le campagne elettorali che il fatto che Biden abbia sempre tenuto un low profile, che continui a tenerlo anche perché, come sappiamo, non è una figura particolarmente carismatica, potrebbe appunto ci deve indurre a non dare affatto Donald Trump per spacciato, anche se in questo momento i sondaggi lo danno di 15 punti indietro rispetto a Joe Biden. Ci lasciamo un attimo per l'aggiornamento sulla viabilità. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, sorrido perché siete attivissimi voi ascoltatori che mandate messaggi, in questo caso WhatsApp al 349-238-6666. C'è qualcuno che mi accusa di dire coronavirus come Di Maio, in inglese si dice coronavirus, siccome ho citato un titolo del Financial Times mi sembrava giusto dirlo nel modo in cui si dice in inglese, in italiano invece coronavirus. E per chi si lamenta che non ho ancora parlato di Fontana, ci arriviamo, e segnalerò anche come rispetto alle prime pagine di ieri e dell'altro ieri, oggi l'inchiesta su Fontana fa un pochino più fatica a guadagnare le prime pagine dei giornali. E ancora una volta, così come ho fatto per la questione invece dell'inchiesta sulla caserma di Piacenza dei Carabinieri, mi stupisco io per prima che faccio questo lavoro di queste scelte, cioè si passa dai titoli a caratteri cubitali o quasi in prima pagina a articoli di aggiornamento, ma appunto all'interno, senza neppure un richiamo in prima pagina, ma lo vedremo. Il Sole 24 Ore, e all'ascoltatore che dice che non ce ne frega, usa il pluralis majestatis del Financial Times, mi dispiace per lui, invece io credo che sia importantissimo dare un'occhiata ai quotidiani stranieri, specie quelli europei, e siccome qui siamo a Radio 24 che fa parte del gruppo Sole 24 Ore e Financial Times è l'altro principale quotidiano economico finanziario europeo, trovo che sia invece importante, interessante e anche stimolante per avere un quadro generale, perché noi siamo, a parte il fatto che siamo parte dell'Unione Europea, anzi siamo uno dei membri fondatori, ma lo sguardo appunto oltre i nostri confini in un mondo globalizzato e nel mezzo di una pandemia che quindi riguarda tutto il mondo, personalmente lo reputo importante, non è una giustificazione, ma mi stupisce che qualcuno pensi che invece non sia così e che non gliene freghi, questo è il titolo, il verbo usato, non gliene freghi nulla di questo sguardo oltre confine. Il Sole 24 Ore titola sul tema finanziario del giorno, che è l'offerta pubblica di scambio e acquisto di Intesa San Paolo su UBI. Il titolo è Intesa oltre il target, incassa il 71% di UBI. Sapete che la Consob, l'autorità di controllo sui mercati finanziari, ha prorogato di qualche giorno i termini appunto per aderire a questa offerta pubblica di scambio e acquisto. Vedremo quindi al 31 di luglio la scadenza ufficiale quanto ancora sarà salito questa percentuale. L'altro grande tema di ieri, l'avete sentito naturalmente nel GR, gli aggiornamenti su come usare il Recovery Fund, che passa attraverso un Recovery Plan. Qui salta all'occhio il fatto che si cerca di trovare una task force, si cerca di vedere se si può usare tutti i comitati che c'erano già, e intanto però nessuno parla più del piano Colao, che in realtà messo a punto da Vittorio Colao in più di un mese e presentato poi prima degli Stati Generali dell'Economia, contiene in realtà, il Sole 24 Ore aveva pubblicato anche una sorta di instant book con tutto quello che il piano Colao suggeriva, lì ci sono già tantissimi punti, ma sembra dimenticato, uno sforzo diciamo di una task force completamente dimenticato. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore, quindi, dal fisco al sud, caccia alle priorità per i fondi dell'Unione Europea, trovate poi tutto a pagina 8 a cura di Gianni Trovati e Emanuela Perrone. Dalla prima pagina anche una lettera aperta che pubblica anche il Sole 24 Ore, ma in realtà è una lettera aperta al Premier, firmata da Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, quindi leader rispettivamente dei tre principali partiti di opposizione, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Il titolo è Basta finanziamenti a pioggia serve fare subito le riforme, la trovate poi a pagina 10. A proposito di riforme, e visto che gli ultimi cambiamenti sul regime pensionistico fa parte anche un provvedimento fortemente voluto dalla Lega, che è quota 100, sulla previdenza, un approfondimento richiamato in prima pagina, pensioni, riforma con delega dal 2022, e all'interno si spiega appunto che per esempio quota 100, se non cambierà prima del 1 gennaio del 2022. E la foto principale però è sostanzialmente un montaggio di quattro foto diverse che danno i dati resi noti ieri dall'ICE, la fotografia dell'ICE, l'Istituto per il Commercio Estero, sull'export, e con naturalmente anche l'intervento del ministro Di Maio, che è il ministro degli esteri, che come sapete quando da ministro del lavoro e dell'economia è diventato nel secondo governo Conte ministro degli esteri, ha portato al ministero degli esteri molte deleghe che erano invece dello sviluppo economico sull'export, e quindi si sente appunto titolato a parlare, perciò ieri ha commentato questi dati, il titolo del Sole 24 Ore: Di Maio da export e imprese, la risposta alla crisi da Covid. Corriere della Sera, come molti altri giornali, titola su quello che avete sentito naturalmente nel GR, la proroga dello stato di emergenza. Stato d'emergenza si va avanti. Dalla prima pagina del Corriere della Sera è sparita la questione Fontana. Troviamo poi all'interno però un aggiornamento di Luigi Ferrarella, che ha seguito questa indagine fin dall'inizio. Le quattro aziende del Big Tech che vanno in un certo senso a processo oggi è un articolo di Massimo Gaggi richiamato in prima pagina. Se il Big Tech va a processo, sotto accusa i quattro giganti. Anche in questo caso, appunto all'ascoltatore che diceva che ce ne frega del Financial Times, sono sostanzialmente i due titoli di Financial Times, perché c'è questo altro titolo sulla prima pagina del Corriere della Sera: Germania, Spagna e nuovi focolai, l'Europa in ansia. La Repubblica, governo di emergenza, quindi anche qui il tema della proroga dello stato di emergenza approvata ieri dal Senato, dove si temevano numeri esigui, perché sapete che in Senato i numeri della maggioranza di governo sono più risicati rispetto alla Camera, però comunque la proroga è passata fino al 15 di ottobre. L'inchiesta Fontana viene richiamata in una riga del sommario, la bugia di Fontana, movimenti sui conti svizzeri per centinaia di migliaia di euro, e poi all'interno ci sono gli aggiornamenti. Ma la foto, anche in questo caso in realtà è un fotomontaggio, sono foto di due librerie, una di Roma e una di Pisa. Avete sentito i dati positivi, confortanti, commentati da Alessandra Tedesco, la cacciatrice di libri qui di Radio 24, dati confortanti sulle vendite di libri, e questo è un'inchiesta che trovate poi alle pagine 30 e 31, la rivincita delle piccole librerie, perché credo che chiunque di noi frequenti piccole librerie, non magari catene, o preferisca comunque andare in libreria invece che comprare online o leggere degli ebook o scaricare degli ebook, ha notato che tante piccole librerie di tante città durante il lockdown si sono attrezzate per fare le consegne a domicilio. Appena è stato possibile riaprire, hanno riaperto con gli incontri, ma naturalmente con tutte le misure di sicurezza necessarie, e quindi appunto hanno resistito reagendo, ingegnandosi di mantenere vivo il legame con chi ama tanto i libri e ama anche andare in libreria. Un aggiornamento sulla vicenda di Piacenza sulla prima pagina della Repubblica c'è. La caserma della vergogna, l'ex fidanzata, quindi non l'attuale fidanzata che due giorni fa è stata chiamata a testimoniare, a dare appunto la sua versione dei fatti, ma si è anche appellata al diritto di non rispondere. Invece l'ex fidanzata dell'ex appuntato Montella, uno dei principali indicati, ha parlato e dice: Montella è stato il mio incubo. Il Messaggero, come ieri, durissimo sulla questione dell'inchiesta, durissimo perché ieri era il titolo principale, oggi è il titolo principale, e ci sono soprattutto i commenti che sono lapidari. In questo caso la nota di cronaca, che quindi serve per il titolo: Fontana perquisita la società del cognato. Ieri infatti verso sera È stata diffusa la notizia che la Guardia di Finanza di Varese aveva appunto avviato questa perquisizione all'interno della Dama, che è la società di proprietà per il 90% della famiglia Dini, e l'amministratore legato è Andrea Dini, marito della sorella di Fontana, che invece ha il 10% di questa società. Ma vi dicevo, il commento di Mario Aiello: così crolla l'immagine di un partito, il fallimento del rito ambrosiano diventa un danno per tutto il paese. Lo trovate poi a pagina 3, trae delle conclusioni, diciamo, molto veloci dalla questione, e appunto parla di fallimento del rito ambrosiano. In primo piano però anche quello che è successo ieri in Senato con l'approvazione della proroga dello stato di emergenza, ma anche i primi passi di questo recovery plan e l'ennesima cabina di regia. E l'ennesimo proclama, perché ricordiamo, e lo ricordano alcuni giornali, che in questi giorni, a parte questi proclami, queste dichiarazioni, tutte queste interviste, i partiti sono soprattutto impegnati, e c'è un commento che adesso vi citerò sulla Stampa di Marcello Sorgi, a spartirsi le commissioni parlamentari che sono in scadenza, e quindi quelle precedenti erano tutte state decise dal precedente governo, quindi l'attuale governo naturalmente le vuole diverse. Per esempio, il PD vuole un ruolo maggiore, PD che nel precedente governo era l'opposizione e ora è invece nella maggioranza. Ma appunto, a parte i proclami e questo atto concreto della proroga dello stato di emergenza, per ora sulla recovery fund ci sono poche certezze, sul recovery plan per ottenere il recovery fund ci sono poche certezze. La foto torna sulla vicenda degli Uffizi, ricorderete Chiara Ferragni, l'imprenditrice digitale, ex blogger, ex influencer, ora appunto imprenditrice digitale tout court, si è fatta fotografare agli Uffizi per un servizio per Vogue Hong Kong. Queste foto sono poi state postate sui suoi account, hanno avuto un effetto molto positivo sugli ingressi agli Uffizi. Il sovrintendente, il direttore degli Uffizi di Firenze, Heike Schmidt, è finito nel mirino, bersaglio di anche alcuni critici d'arte. Ricordo in particolare Tommaso Montanari, che si è esercitato su questo tema più volte sui quotidiani, in particolare sul Fatto Quotidiano. E ora, titola il Messaggero, dopo le liti per Raffaello e l'influencer, il ministero riabilita il comitato scientifico degli Uffizi che si era in precedenza dimesso. Ora invece noi ci lasciamo, sentiremo anche un aggiornamento sul meteo. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie ancora una volta agli ascoltatori attentissimi che mi hanno colta in fallo sulla parentela tra Andrea Dini e sua moglie, che è la sorella del governatore della Lombardia, non naturalmente viceversa. Io una delle mie tantissime debolezze, e c'è qualche cosa evidente che scatta nei miei neuroni. Io sulle parentele, nuore, cognate eccetera faccio sempre pasticci. Comunque appunto Andrea Dini è il marito della sorella di Attilio Fontana. Ma vi segnalavo dal Messaggero, perché vorrei davvero giustificare questa cosa che ho detto, che è molto duro il Messaggero. Pensate che appunto c'è il titolo principale, il commento di Mario Aiello, e un altro editoriale di Massimo Martinelli, i conti del governatore, trasparenza lombarda, corrente alternata, dove si parla peraltro anche della vicenda che non è di stretta attualità, ma sicuramente ci sono delle assonanze, che è quella delle mascherine, la truffa delle mascherine, un appalto dato dalla Regione Lazio, che come sapete è guidata da Nicola Zingaretti, che è anche segretario del PD, quella appunto mascherine, che non, anche in quel caso un appalto milionario che è risultato poi una truffa, e molti fanno questo parallelo. Massimo Martinelli ricorda anche quella vicenda, che ripeto è giustissimo ricordare, non è di strettissima attualità, ma c'è un evidente parallelo. Vi segnalo anche, ultima segnalazione dalla prima pagina del Messaggero, perché è un tema che sicuramente a noi giornalisti è molto caro, perché ci sentiamo parte in causa, però è comunque giusto parlarne. C'è questa, perché poi noi in Parlamento abbiamo da molti anni spesso ex giornalisti che poi magari finito il mandato parlamentare tornano a fare il giornalista, e Maria Latella si concentra su questo. Maria Latella, non la devo presentare agli ascoltatori di Radio 24, l'articolo che parte dalla prima pagina e poi trovate a pagina 16, prende spunto anche da alcuni fatti del grandi quotidiani francesi Libération, Le Figaro, da Geoffrin, che è appunto il direttore di Libération, all'Italia, giornalisti politici e viceversa, quelle porte troppo girevoli. E appunto si parla della vicenda di Laurent Geoffrin, che ha deciso di candidarsi, però ha anche annunciato che lascerà la direzione di Libération. Ma ci sono tanti altri casi, per esempio viene citato, per parlare di cose appunto di casa nostra, Walter Veltroni, che comunque il giornalista l'ha fatto da direttore dell'Unità, pubblica grandi interviste sul Corriere della Sera, l'ex ministro ed ex parlamentare di Forza Italia annuncia De Girolamo condurrà un programma in Rai, e per contro in Liguria, e questo è il caso più recente, due giornalisti si sfidano. A destra corre l'attuale Giovanni Toti, già a Mediaset per una vita, a sinistra, sostenuto da 5 Stelle e dal PD, si lancia l'ex collega del Fatto Quotidiano Ferruccio Sansa. La conclusione di Maria Latella è questa: dopo il coronavirus e la crisi economica che ne è seguita, tutti parlano della necessità di reinventarsi, di provarsi su terreni nuovi. Come al solito, giornalisti e politici sembrano i più pronti a sperimentare, ma con moderazione, senza allontanarsi troppo dalla comfort zone di due professioni che, entrambe in crisi, sembrano volersi sostenere a vicenda. E a voi naturalmente pensare, capire, giudicare, farsi un'idea se questo sia giustificato o no. Personalmente penso che assolutamente no. Se si è giornalisti, si resta giornalisti, e preferibilmente non si fa il salto in politica per poi magari fare anche un salto all'indietro. L'Avvenire ha un titolo completamente diverso, anche se la notizia si trova anche sugli altri giornali, ed è questo: Libia, altra strage. La Guardia Costiera libica, che ricordo è stato deciso da questo governo, di cui fa parte anche il PD, di rifinanziare, spara sui migranti riportati indietro, 3 le vittime, 4 i feriti. In Italia i militari, come annunciato dal ministro Lamorgese 2 giorni fa, sono arrivati nei centri siciliani, e a Lampedusa è stato predisposto un traghetto per far fare la quarantena ai migranti. In prima pagina anche un'inchiesta, che poi trovate a pagina 15, che nasce dal rapporto di Global Witness: violenza record in Colombia e nelle Filippine, verso chi si sacrifica per l'ambiente. Il totale degli attivisti assassinati è 212. Molto interessante dall'Avvenire anche un altro spunto di riflessione, che riguarda le procedure che stiamo seguendo in Italia, ma in tantissimi paesi, per i test sui virus, sui vaccini per il coronavirus. Sapete che ogni vaccino ha le sue fasi di sperimentazioni, sembrano molto accelerate in questo caso della pandemia da coronavirus, e Assuntina Morresi si chiede: testare il virus sui sani è un nodo etico sul quale appunto dovremmo riflettere. La Stampa, scontro sullo stato di emergenza, quindi come Corriere Repubblica titola su questo aggiornamento arrivato ieri dal Senato. La foto però è stata scattata in un ospedale, e il titolo è: Covid, ecco il piano, anche i privati per ridurre le liste d'attesa. Un aggiornamento di Luigi Manconi sulla notizia che poi abbiamo dato ieri, cioè della soluzione da parte della Corte di Assise di Massa di Mina Welby e Marco Cappato dall'accusa di istigazione e aiuto al suicidio. E ancora il tema, ancora una volta l'abbiamo ricordato anche ieri, è un tema delicatissimo di bioetica, e però purtroppo in Italia c'è un vuoto legislativo, perché il Parlamento non è riuscito né nella legislatura precedente, né in questa, né col governo precedente, né con questo governo, a arrivare a una legge appunto sul fine vita. Il caso Fontana è richiamato in prima pagina, ma in alto: la Guardia di Finanza perquisisce la sede della DAM SPA, il commento sulla scuola è affidato a Massimo Cacciari, e già dal titolo si capisce la posizione di Massimo Cacciari: una scuola senza rotelle. Vi segnalo, perché quando si parla appunto della proroga dello stato di emergenza, uno schemino che trovate a pagina 6, che spiega esattamente in poche parole che cosa veramente implichi questo stato di emergenza prorogato, che come sapete era fissata per il 31 di luglio, è stato prorogato a ottobre. Che cosa implica? 1. In caso di gravi focolai permette di istituire nuove zone rosse, del tutto confinate e chiuse all'esterno. 2. Se si verificasse una seconda seconda ondata di Covid si potrebbero trovare posti letto in strutture diverse dagli ospedali. 3. In stato di emergenza c'è la possibilità di bloccare i voli e gli ingressi da e per gli stati ritenuti a rischio. 4. I materiali per far riaprire in sicurezza la scuola saranno acquistati saltando alcuni passaggi burocratici. Vi segnalo anche una Free Press, cioè uno di quei giornali che viene distribuito gratuitamente, in questo caso è Leggo, che trovate in capillarmente distribuito a Roma e a Milano, perché l'apertura è del direttore di Leggo, Davide Desario, ed è un'intervista rarissima, era molto che non parlava, l'ex governatore della banca di Banca Italia Fazio, che spiega qual è il suo parere sul Recovery Fund e anche lui dice occasione per rilanciare il Sud con infrastrutture e maggiore produttività. L'ex governatore di Banca Italia su Conte dice è stato abile, ma ora mancano i piani di sviluppo. E torniamo su questo tema, che al più presto deve essere messo a punto questo recovery plan da presentare alla Commissione Europea per arrivare ad avere i soldi del Recovery Fund. La Gazzetta dello Sport, ve la segnalo, naturalmente c'è la cronaca delle partite di ieri, ma anche perché ieri è successa questa cosa strana che alcuni a Milano, chi si trovava in quel momento in Piazza del Duomo, ha notato. Cioè sul Duomo di Milano è stata proiettata una immagine, quasi un'ombra cinese, di Messi con la sua maglia da numero 10 e l'ha proiettata l'emittente cinese di Suning, e naturalmente sapete che il tema è magari si sta dietro le quinte lavorando a un arrivo di Messi, il suo soprannome è La Pulce, a Milano, magari appunto all'Inter. La Pulce a Milano spunta la prova TV. In realtà questa immagine è stata proiettata sul Duomo e poi dopo pochi minuti sono stati oscurati nome e numero di maglia del giocatore. Naturalmente Suning, che è l'emittente di proprietà di Zhang Jindong, che è anche proprietario dell'Inter. Il Fatto Quotidiano apre l'inchiesta sul governatore Fontana. Fontana ha smentito quei camici inutili. Perché questo virgolettato? Perché il direttore generale di Aria, che è la stazione appaltante della regione Lombardia, ha detto ieri che l'appalto per questi camici al cognato, cioè alla Dama, la società che è appunto di proprietà della famiglia Dini e per il 90% della famiglia Dini, per il 10% della sorella del governatore Fontana, moglie di Andrea Dini, non era affatto indispensabile. E poi alle pagine 2 e 3, per chi vuole appunto approfondire questa vicenda, i giornalisti del Fatto Quotidiano hanno anche censito tutte le proprietà di Attilio Fontana, 31 fabbricati, 4 terreni, conti in banca, eccetera. Il Giornale, emergenza Conte, lo chiama però colpo di mano il Giornale, questa proroga dello stato di emergenza, il Premier si blinda fino a ottobre. Il commento di Stefano Zurlo, vice direttore del Giornale, torna invece sulla questione del ex compagno di Rocco Casalino, il cittadino cubano però residente in Italia, percepisce anche un sussidio di disoccupazione, che ha perso, si è saputo con uno scoop della Verità, 18.000 euro facendo trading online. Stefano Zurlo commenta a 4 giorni da quando si è saputo di questa vicenda, quindi si sta ancora cercando di fare chiarezza su le modalità, innanzitutto dove ha preso i soldi Alvarez per fare questo trading online, il ruolo di Casalino, ma per Stefano Zurlo in fondo lo definisce il metodo Casalino per distrarre gli italiani, trucchi da portavoce, perché naturalmente Rocco Casalino è il portavoce del Premier Conte. Un approfondimento anche su quello che viene definito il caso Camici, soldi, eredità e conti, tutti addosso a Fontana. Il Giorno, ve lo segnalo, primo l'apertura anche in questo caso è sullo stato d'emergenza, proroga con rissa, scrive il Giorno in prima pagina, ma la fotonotizia è di Anthony Fauci, il virologo quasi ottantenne ma decisamente in forma, gli è stato chiesto di fare il primo lancio allo stadio che ospita i New York Yankees, la squadra di baseball di New York, quando è ripartito, o meglio è partito il campionato di baseball, che era proprio, non era partito perché era iniziato il lockdown, ha fatto questo primo lancio. È un grande tifoso dei New York Yankees, è un newyorkese, ma ieri ha fatto alcune dichiarazioni per spiegare che nella corsa al vaccino, insomma, gli Stati Uniti, in effetti, come ha già aveva anche spiegato Donald Trump, i due principali filoni di ricerca negli Stati Uniti, uno fa capo a Pfizer, che è una delle multinazionali del farmaco, sono a buon punto. L'antidoto al coronavirus, l'America accelera sui test finali e Fauci dice saremo pronti in ottobre, ma Putin, il presidente russo, dice noi arriveremo prima. Sapete che c'è stato anche 10 giorni fa circa la notizia che hacker russi erano entrati nei computer di alcuni istituti di ricerca proprio per rubare informazioni preziose sul vaccino. Libero, i migranti fanno più paura del virus, non si chiudono i porti, si spalancano. Il commento è del direttore di Libero, Vittorio Feltri: l'accoglienza indiscriminata è un reato. Vi segnalo anche, sempre di Feltri, un ricordo di Marco Pannella. Pannella sì, era un politico di altro livello, naturalmente fondatore del Partito Radicale, e questo articolo di Vittorio Feltri in realtà fu pubblicato nel 1987, dopo che insieme a Marco Pannella passarono un giorno intero a parlare di tante questioni, alcune delle quali, come scoprirete se leggete l'articolo che poi prosegue a pagina 19, sono estremamente attuali. Pannelli, sì, che era, appunto, vi dico, tutta la pagina 19, suscitava odi e amori esagerati, lo fermavano pretendendo che ascoltassi i loro guai, le sue invettive erano una goduria. La verità, niente tamponi ai migranti, i sindaci 2 punti, blocco navale, soprattutto naturalmente i sindaci della Sicilia, l'emergenza sbarchi, scrive la verità, manda in tilt i giallorossi, ormai è tutti contro tutti. La foto però è quella che è stata pubblicata molte volte anche nei giorni scorsi, ritrae Rocco Casalino e il suo ex compagno Alvarez in spiaggia. Casalino e compagno parlano ma non spiegano, e Maurizio Belpietro commenta questa vicenda che riguarda appunto José Carlos Alvarez e Rocco Casalino, e ora indaga la Consob. Ultima segnalazione prima della seconda pausa sulla viabilità, il Foglio. Dal Foglio vi segnalo un aggiornamento sulla questione dell'appalto per i banchi scolastici. Arcuri si corregge sui banchi scolastici. Come sempre, interessantissimo, questo è veramente un quotidiano di opinione, cioè è molto, sapete che ha 6, 8, 10 pagine massimo. L'articolo principale di oggi è del fondatore Giuliano Ferrara. Attenti al lupo, Trump ora è un animale ferito che potrebbe tornare nella sua gabbia per questo motivo di allarme. Quindi anche Giuliano Ferrara è convinto che nonostante lo svantaggio nei confronti di Biden nei sondaggi, Trump non deve assolutamente essere dato per sconfitto alle elezioni che si terranno il primo martedì di novembre. E poi vi segnalo, visto che parliamo di giornali di opinione, una nota stonata secondo me sulla questione Fontana. È un articolo di Annalisa Chirico. A volte viene voglia di dire mollo tutto ma io resto, è una sorta di resoconto di una telefonata tra Annalisa Chirico e il governatore Fontana, dove appunto io l'ho letto cercando qualche dettaglio sulle due questioni più spinose, cioè l'origine di questo conto che poi è diventato un trust alle Bahamas e poi utilizzando la voluntary disclosure è diventato non un conto in Italia ma un conto in Svizzera. Di tutto questo non c'è traccia e ci sono tutte queste dichiarazioni sulla integrità eccetera, dico nota stonata perché questo è appunto solo l'ennesima racconto di solo una versione, quella dell'indagato Attilio Fontana. Ci lasciamo però un attimo e mi scuso con i colleghi della viabilità per qualche minuto di ritardo per appunto un aggiornamento sulla viabilità. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e agli ascoltatori un grazie, e naturalmente anche a tutti gli ascoltatori che mandano messaggi, WhatsApp o SMS al 349-238-6666. Anche oggi qualcuno vorrebbe liquidare la vicenda di Casalino come gossip che non andrebbe citato. Noi in Italia, lo sapete, non abbiamo dei giornali tabloid, abbiamo dei quotidiani che non si occupano, che si occupano solo lateralmente, insomma, di quello che possiamo definire gossip. La vicenda di Rocco Casalino secondo me non è gossip, perché stiamo parlando del portavoce del Premier Conte in un momento molto delicato del governo Conte, che ieri appunto ha chiesto in Senato la proroga dello stato di emergenza, ma io lo cito non tanto perché mi interessi o non mi interessi Rocco Casalino e il suo ex fidanzato cubano, ma perché è sulle prime pagine dei giornali. Questa è una rassegna stampa e secondo me chi lo mette in prima pagina è giusto che venga citato in una rassegna stampa, punto. Andiamo alle pagine interne, torniamo sul Sole 24 Ore. Ieri abbiamo parlato di questo articolo firmato da Jacopo Gilberto, con questa, che ha sollevato questo problema della possibilità che in Italia ci sia addirittura una doppia plastic tax sulle imprese. E ieri c'è stata la replica di Gualtieri, o meglio la spiegazione, il manovra anche auto e scuola, stop alla doppia plastic tax. Trovate tutto, tra l'altro di questo si occuperà anche Laura Bettini dopo il GR delle 8 nella puntata di oggi di Ma cos'è quest'estate, e quindi appunto l'articolo è a pagina 5 del Sole di oggi. Un aggiornamento praticamente c'è solo sul Sole, eppure questa questione anche qui è stata super dibattuta per alcuni giorni ed è importante, ed è quella della concessione autostradale ad Atlantia e di come cambierà l'assetto di autostrade. Trovate l'aggiornamento a pagina 16 del Sole 24 Ore. Atlantia vertice con CDP, Cassa Depositi e Prestiti, per definire l'intesa su ASPI, cioè per capire appunto come gestire le autostrade adesso che c'è stato questo riassetto societario del controllo della società Autostrade, che sapete controlla la maggior parte della nostra rete autostradale. Prosegue, o meglio, è arrivata la seconda puntata, la serie Il ritorno della villeggiatura del Sole 24 Ore, che chiede a un personaggio noto di dire perché ha un luogo del cuore, di indicare qual è il suo luogo del cuore, dove idealmente fare anche vacanza, e spiegare perché, e poi affiancato da un approfondimento su alcuni aspetti anche economici di quel luogo. Oggi è Venezia. Marco Alverà, che è amministratore legato di Snam, che sono 20 anni che lavora nelle aziende energetiche, originario di Venezia. Venezia, magia di un luogo unico al mondo che per me è casa. E invece, dicevo appunto, l'approfondimento su Venezia è di Barbara Ganz, che è la corrispondente del Sole 24 Ore dal Veneto. La Serenissima riparte dalle tradizioni. E poi vi segnalo, perché poi è una voce notissima di Radio 24 e non solo, perché poi ha tutte le sue dirette Facebook, il libro Il potere della gratitudine, che nasce proprio dal programma Obiettivo Salute di Radio 24, condotto da Nicoletta Carbone, e esce questo libro, da domani sarà in edicola con il Sole 24 Ore e poi anche nelle librerie, che si intitola Il potere della gratitudine, scritto con Andrea Vitali, ed è un libro che è proprio stato ispirato dal dialogo con gli ascoltatori per creare 15 racconti che caratterizzano la seconda parte del libro. E viene anche recensito questo libro a pagina 19 del Sole 24 Ore da Luigino Bruni, Belle storie di gratitudine, specchio della nostra umanità. Dal Corriere della Sera vi segnalo un'intervista a Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud, che torna su questo tema di cui avevamo citato anche l'intervista di ieri al vice ministro per lo sviluppo economico Laura Castelli, e dice: subito per il Sud sgravi fiscali del 30% sui contributi delle imprese. Il Corriere della Sera, come vi dicevo, ha un aggiornamento sull'inchiesta sul governatore Fontana, ma è a pagina 9. Camici, perquisito il cognato di Fontana, si cercano le chat. A volte, forse come per quello dico sempre, perché ne sono convinta, poi magari lo ripeto troppo spesso, non so, che è importante sempre dare uno sguardo fuori dall'Italia, e forse anche con tutti i difetti che può avere l'Italia o comunque l'Occidente, ci sono poi luoghi dove è molto più difficile e pericoloso vivere. Oggi una delle pagine di esteri del Corriere della Sera, con un reportage di Monica Ricci Sargentini, ci racconta la vicenda di Kylie Moore Gilbert, che era 33 anni, studiava in Iran e ora è stata trasferita, scusatemi, non era inglese ma veniva dal Regno Unito, dall'Australia, che è una vicenda che mi ha talmente colpita, forse perché è una ragazza giovane che segue questo sogno di studiare all'estero, appunto va in Iran, fermata in Iran, trasferita in un carcere incubo, e praticamente la famiglia non sa più niente di lei, e quindi appunto è stata condannata a 10 anni, tra l'altro aveva già subito in quello che non so nemmeno se chiamare un processo, sicuramente è stato un processo sommario prima di questa condanna a 10 anni, aveva subito molte violenze, anche non soltanto psicologiche ma anche fisiche, e ora appunto la famiglia chiede che qualcuno che in Occidente, in particolare del governo australiano, faccia sentire la sua voce in Iran. E l'altra storia, che riguarda sempre i diritti umani in un altro paese, in questo caso la Turchia, e il caso raccontato sempre da Monica Ricci Sargentini, è quello di Osman Kavala, in prigione da 1000 giorni senza mai una condanna. Questa è invece sempre dagli esteri, è una storia che ci racconta Guido Santevecchi, e ancora una volta ci fa capire come noi appartenenti al genere, alla razza Homo sapiens, ci sentiamo veramente i padroni del pianeta. In questo caso è una vicenda che riguarda i cinesi. I pescherecci cinesi invadono le Galapagos, vicino all'arcipelago, 260 imbarcazioni di Pechino, spesso oltre la legge. Naturalmente non si sa bene che danni facciano in questo caso soprattutto agli animali e ai pesci che vivono in mare, ma sicuramente è di nuovo appunto l'ennesimo esempio di come roviniamo l'ambiente, perché ce ne sentiamo evidentemente padroni. Una reportage invece pubblicato da Repubblica di Bernard-Henri Lévy, che è un filosofo francese che invece è stato in Libia per vedere cosa succede in alcune parti della Libia. Abbiamo appena detto ieri la notizia che la Guardia Costiera Libica ha sparato sui migranti che erano stati respinti da Malta e dall'Italia. Questo reportage lo trovate a pagine 12 e 13 della Repubblica. Taruna, nella Tebe di Libia, ecco le fosse comuni delle milizie di Haftar. Invece un'altra storia, in questo caso abbiamo detto insomma i difetti di noi Homo sapiens, ma naturalmente abbiamo anche rispetto a tutti gli altri animali questa capacità di pensiero, di ricerca, e quindi i vantaggi di questo. Un bel esempio, pagina 21, la storia ce la racconta Luca Fraioli, un progetto da 20 miliardi, parte in Francia l'assemblaggio di ITER, la macchina che accenderà un sole in miniatura, 1 milione di pezzi per arrivare a uno dei sogni, che è quello di energia pulita e sicura. Sempre da Repubblica vi segnalo un articolo scritto a quattro mani da Maurizio Molinari, direttore di Repubblica, e Jürgen Kaube, che è direttore della Frankfurter Allgemeine Zeitung, per un'Europa più solidale. La ripresa post-Covid rappresenta un'opportunità per rafforzare l'Unione, ma anche un rischio opposto da evitare. Se prevarrà l'egoismo, ogni paese andrà per la sua strada, e ciò consentirà ai populisti di vincere la sfida contro la democrazia e la libertà. Il reportage sulle piccole librerie, pagina 30 e 31 della Repubblica. E poi vi segnalo visto che abbiamo parlato di riforme in generale degli ammortizzatori sociali, se ne parla da più giorni, pagina 19 del Messaggero, reddito di cittadinanza via ai tagli. Scatta da settembre la procedura per decurtare sulle card gli importi ricevuti ma non ancora spesi. Era l'ultima segnalazione per oggi, un grazie a Carmelo Lauricella in regia, e ancora grazie a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici naturalmente. Un buon mercoledì da Giulia Crivelli.